Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it. Focus Economia. Di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia la prima puntata della settimana di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, che è divisa sostanzialmente in due grandi temi, che poi sono anche i temi in agenda del governo. Uno riguarda la vicenda autostrade, dopo le dichiarazioni oggi sui giornali del Premier Conte. Domani c'è un Consiglio dei Ministri alle 11 e anche il dossier Autostrade per l'Italia sarà sul tavolo. E perché tra l'altro non c'è solo quello, ci dovrebbe essere anche il nuovo DPCM per prorogare le misure anticontagio, ampiamente attese a questo punto. Ma dicevo, il tema è la proposta dei Benetton, o meglio di Autostrade per l'Italia, inviata sabato al governo, e c'è un nuovo CDA di Aspi, se ho ben visto. Anzi, c'è un CDA di Atlantia domani, sappiamo come è l'andamento delle quote societarie. Comunque domani ci sarà una riunione straordinaria del Consiglio di amministrazione di Atlantia, la società riunirà i consiglieri di amministrazione per un esame della situazione riguardante la concessione di Autostrade per l'Italia. C'è stato un... voi sapete che Autostrade per l'Italia è posseduta all'88% da Atlantia, che a sua volta è, ha come azionista di riferimento Atlantia, per il 30% il gruppo Sintonia dei Benetton. Perché questa distinzione? Perché Atlantia non fa solo Autostrade per l'Italia, ma ha anche la gestione di Fiumicino, Ciampino, Nizza, aeroporti di Fiumicino, di Ciampino, Nizza, di Cannes, Saint-Tropez, e ha anche varie altre partecipazioni. Ma il tema è la proposta fatta da Autostrade per l'Italia, che però non è stata giudicata sufficiente dal governo a partire dal Premier Conte. Qual è la proposta? Un piano da 3,5 miliardi di oneri per la ricostruzione, manutenzione, riduzione e di riduzione tariffaria, e poi la conferma di investimenti per 14,5 miliardi e altri 7 di manutenzioni, e la revisione delle regole dei pedaggi, con, da quello che si è capito, un abbassamento dei pedaggi del 5%. E poi ancora la concessione è il tema principale, quindi sistema tariffario, manutenzione, investimenti. E il secondo tema però è di governance, cioè come dovrà essere la compagine societaria del nuovo gruppo, perché il governo ha chiesto ai Benetton di fare un passo indietro. La holding, ossia Atlantia, è disposta a scendere sotto il 50%, quindi dall'80% attuale a meno del 50%, si parla di un 30%. Questo non attraverso la cessione della quota, ma attraverso un aumento di capitale pari a 3 miliardi, che dovrebbe permettere di far entrare dentro Autostrade anche la Cassa Depositi e Prestiti, F2I, Poste Vita e alcune casse previdenziali. Per quello che riguarda invece il tema della concessione, il governo vuole un taglio delle tariffe di almeno il 5% e un'accelerazione sugli investimenti, almeno 3,4 miliardi. A giugno Aspi aveva offerto 2,8 miliardi, da aggiungersi ai 7 miliardi e mezzo di investimenti già presenti. Però, dicevo, le dichiarazioni del Presidente del Consiglio hanno cambiato lo scenario, perché Conte, in un'intervista alla Stampa e anche al Fatto Quotidiano, ha detto: i Benetton non hanno ancora capito che questo governo non accetterà di sacrificare bene pubblico sull'altare dei loro interessi privati. E poi ha aggiunto sul Fatto: è altrettanto inaccettabile la pretesa di Aspi di perpetuare il regime di favore in caso di nuovi inadempimenti degli obblighi di concessione. La famiglia Benetton ha risposto: abbiamo sempre rispettato le istituzioni e quando ci è stato chiesto di entrare in diverse società, all'Italia, Autostrade, così come oggi, abbiamo sempre rispettato le richieste delle istituzioni, però tutti i 5 Stelle sono compatti nel chiedere la revoca to cure, e lo ha detto sia Di Battista che il capo del movimento al Senato Perilli, che il capogruppo Davide Crippa alla Camera. Invece Salvini ha chiesto che il governo non perda altro tempo sulle concessioni, così come la Meloni, Giorgia Meloni, ha detto per 2 anni il nulla, non vi è stato nulla del governo, il nulla del governo sulla revoca. E per quello che riguarda invece il Renzi, Italia Viva ha detto: i populisti chiedono da anni la revoca della concessione, facile da dire, difficile da fare, attenzione a fare un regalo ai privati e Benettone e ai soci, aprendo un contenzioso miliardario che crea incertezza, blocco dei cantieri, licenziamenti. Questa è la verità, si perdono forse punti nei sondaggi, ma si salvano le nuove generazioni da miliardi di debiti, e ha chiesto l'intervento della Cassa Depositi e Prestiti. E poi c'è il tema che riguarda il titolo in borsa. Perché? Perché Autostrade per l'Italia ha fatto sapere che l'eventuale revoca della commissione creerebbe un default di circa 10 miliardi, perché sono 10 miliardi i debiti e 9 miliardi l'impatto a cascata su Atlantia. Sono debiti che non riuscirebbero a essere pagati e in gran parte detenuti da investitori istituzionali e grandi istituzioni finanziarie. Ora, poi ci sono 750 milioni di un prestito obbligazionario di Autostrade per l'Italia che è detenuto da 17.000 piccoli risparmiatori. Il titolo va malissimo in borsa, è crollato, ha avuto difficoltà a fare prezzo, adesso cede un 14,50%. In maniera molto pragmatica, poi ne parleremo nella seconda ora del programma, a mio avviso il tema è questo: non c'è nessun dubbio ormai che la gestione della concessione da parte di Aspi, e quindi con il ruolo di Atlantia, sia stata una gestione del tutto insufficiente per gli investimenti non fatti, per il ritardo negli investimenti, per quello che abbiamo visto, ahimè, a partire dalla tragedia del Ponte Morandi, ma non solo, altri viadotti e altri problemi, e anche e soprattutto investimenti non fatti a fronte dell'aumento tariffario. Quello che però mi interessa da cittadino, quindi non c'è nessun problema di chi sta con i Benetton, chi sta contro i Benetton. Se un privato in questo dimostra di non saper gestire una concessione, il dato è molto semplice. Però quello che a me interessa come cittadino è che, al di là degli slogan e di quello che, come dice Renzi, sono d'accordo stavolta, può creare più consenso elettorale, no? A me interessa capire che l'intera operazione non porti a un danno nelle casse dello Stato, cioè non si apre un contenzioso di, che stimato adesso impossibili, 7 miliardi di euro. B, che ci si preoccupi anche di quello che capiterà ai 7.000 dipendenti del gruppo, e quindi anche non si crei un fallimento del titolo. Quindi la soluzione migliore, io non sono il tecnico, ritengo che sicuramente i Benetton debbano, e quindi Atlantia, debba scendere sotto il 50%, però avrei la soluzione migliore per me come cittadino e per i dipendenti, e non rischiare paradossalmente che una soluzione pasticciata fatta solo diciamo a favore di social o dei social crei poi un contenzioso per cui fra qualche anno scopriamo che lo Stato deve pure pagare, per aver gestito male questa vicenda, miliardi di Benetton. Sarebbe una beffa. Cioè, nella vita l'importante è raggiungere l'obiettivo, non è tanto la declamare, capito? Saremo duri e puri. Ho capito, è importante essere duri, puri, quello che volete, ma anche pragmatici, cosa che ogni tanto mi sembra mancare nel dibattito. E poi l'altro fronte di cui parleremo, e concludo, è il fronte europeo di Conte, perché dopo aver incontrato il premier olandese Rutte, oggi sta incontrando Angela Merkel, e poi mercoledì il Premier svolgerà un'informativa in Parlamento sul Consiglio europeo di fine settimana, poi giovedì volerà a Bruxelles per incontrare Macron, e quindi avrà chiuso il tavolo europeo, cioè Lisbona, Madrid, L'Aia, cioè Rutte e Berlino, e a quel punto anche l'incontro con Macron, e poi venerdì inizierà 2 giorni sul Recovery Fund. Sembra che la posizione italiana sia di dire: vabbè, facciamolo piuttosto più basso rispetto ai 750 miliardi, ma privo di condizionalità, o meglio, privo di prestiti, ma soprattutto da questo punto di vista che vi siano finanziamenti non da restituire, quindi le cosiddette sovvenzioni. Vedremo come andrà. Settimana sicuramente intensa per il Presidente del Consiglio. La borsa, già accennavamo al caso di borsa che è Atlantia, per il resto Milano è positiva di un punto percentuale, come Francoforte, 1,5 guadagna Parigi, l'1,30 Londra, l'1,50 il Dow Jones, molto forte Telecom Italia più 6,20, Leonardo più 5,5, CNH più 3,60, Exor più 2,80, Fiat più 2,40, Recordati più 2,30, Nexi più 2%, Estimac Electronics più 1,90 come Unicredit e Mediobanca, l'1,80 lo guadagna Eni come Poste Italiane. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. E poi, come sempre, la diretta su Facebook e la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Qualcuno mi chiede l'appuntamento del lunedì con Alessandro Platerotti. Ci sarà e sarà dedicato a un dietro la notizia sui fondi, diciamo così, che potrebbero essere interessati a entrare in Atlantia, qualora in Autostrade per l'Italia, qualora appunto la quota di Atlantia scendesse ben al di sotto del 50%. Ne parleremo appunto prima della lunga pagina su Atlantia. Altre notizie in breve. Allora, per quello che riguarda l'allarme della FAO per via del Covid, ci sono 130 milioni di persone in fame cronica, su un totale di 690 milioni di persone che soffrono la fame a livello mondiale. Per quello che riguarda le stime, sono sempre stime, oggi c'è il Fondo Monetario Internazionale che dice meno 9% il PIL europeo quest'anno farà più 6% quasi nel 2021, si tornerà ai livelli del 2019 solo nel 2022. E su questo, insomma, mi sembra che l'unica cosa su cui tutte le previsioni, Fondo Monetario, OCSE, Commissione Europea, siano allineate è il fatto che la ripresa nel 2021 sarà un po' più della metà della perdita del 2020 e che quindi se ne riparla nel 2022 per tornare ai livelli 2019. Dunque, nel frattempo la Commissione Europea ha dato via libera alla concessione di 3,4 miliardi di aiuti da parte dello Stato olandese alla compagnia aerea KLM. Parleremo degli molti mi hanno scritto degli olandesi, ma è possibile che diano lezioni a tutti? Allora, loro hanno sostanzialmente un debito pubblico assolutamente sotto controllo, ma va anche detto, io sto sempre attento a condividere, come ne discutevamo con il professor Sapelli venerdì, il debito pubblico con il debito privato o risparmi nel caso dell'Italia privati, perché se li metti troppo vicini e vuoi creare un vaso comunicante, secondo me significa poi aprire la strada a un ragionamento sui debiti, sui risparmi privati. Però è anche vero che il debito del settore privato nel suo complesso in Olanda raggiunge il 231% del PIL. Parliamo dell'indebitamento delle società, chiaramente, non finanziarie. Quindi le società olandesi, alla faccia della frugalità, sono molto più indebitate delle società italiane. Nello specifico, se si guarda le società non finanziarie, in Olanda il loro debito è il 132% del PIL, in Italia è fermo al 66%. L'indebitamento delle famiglie è pari al 98% del PIL in Olanda, 98,7%, quasi 100%, è il 41% in Italia. Quindi attenzione che sia sul fronte dell'indebitamento delle società private, a partire da quello non finanziario, che delle famiglie, l'Olanda è a più del doppio rispetto all'Italia. E se infatti il rapporto tra debito e reddito delle famiglie è di quasi 2 a 1, cioè 193%, questo è un dato tre volte superiore rispetto al caso del nostro paese. Ripeto, non è per mettere vasi comunicanti tra debito pubblico e risparmio privato. perché starei molto attento a mettere il risparmio privato degli italiani a garanzia del debito pubblico italiano, perché ripeto, poi se devi creare un vaso comunicante a casa mia poi si chiama patrimoniale. Ma è solo per precisare che il paese frugale, quando si tratta di indebitamento delle sue società finanziarie e non finanziarie e delle sue famiglie, è molto molto molto meno frugale di noi, anzi i frugali siamo noi. Veniamo all'Italia. Allora, adesso parleremo del rapporto dell'Istat. No, io non sapevo neanche se darla sta notizia, però siccome è da stamattina che sorrido rido, la voglio dare. Sorrido rido non è che per presa in giro, però immagino che chi è in ascolto sappia il mio amore sconsiderato, diciamo, dal punto di vista economico per Mario Draghi, che pure avrà fatto qualche errore in vita sua, ma insomma non è tanto solo whatever it takes and believe me, it will be enough, che è entrato anche nel dizionario Treccani, solo whatever it takes. Proprio è l'amore per l'uomo che ha salvato non solo l'euro, i risparmi degli europei dell'area euro contro la vulgata, in quel caso rigorista e frugale, anche della Germania e degli altri stati satelliti, e l'incapacità politica dell'Europa di dare una risposta all'attacco ai debiti sovrani dopo il caso greco. E quindi io adoro Mario Draghi e questo mio giudizio è viziato da questa adorazione profonda, di carattere chiaramente professionale. Sorrido perché io vi leggo testualmente un pezzo dell'intervista del ministro degli esteri Luigi Di Maio al Foglio. È un'intervista, beh, in cui Di Maio ha ricordato anche di aver avuto uno scambio con la cancelliera Angela Merkel, che si è avvicinata a lui e le ha detto: ho sentito parlare bene di lei, Di Maio, mi parlano bene del suo lavoro. Questo uno giustamente lo può ricordare, ma c'è un altro passaggio che mi ha lasciato un po' perplesso, non perplesso, ma ha fatto ridere, dai. Allora, gli viene fatta una domanda sull'incontro che ha avuto Di Maio con Draghi. Guardi, risponde Di Maio, è stato un incontro istituzionale, come ne tengo molti altri. In qualità di ministro degli esteri è naturale che io interloquisca e abbia un dialogo anche con l'ex presidente della BCE Mario Draghi. Non ci vedo nulla di strano, fin qua tutto bene. C'è stato uno scambio di vedute su vari temi, specificatamente in virtù del ruolo che ha ricoperto ai vertici della BCE, credo. È stato un incontro cordiale e proficuo, aggiunge Di Maio, che conclude: Draghi mi ha fatto un'ottima impressione. Ora, io sono contento, che è giusto, non poteva anche dire Draghi, mi è sembrato, però siamo molto contenti che Di Maio giudichi Draghi come preparato da un punto di vista economico, magari anche sull'inglese, magari anche su altre forme di tempi italiani. Ma come si fa a dire Draghi mi ha fatto un'ottima impressione? Per carità, puoi anche dire che Draghi non ti è piaciuto, così, ma è il giudizio che di solito si dà a una persona che tu valuti, che incontri, che non conoscevi, che dici: ma ha incontrato quel candidato, mi ha fatto un'ottima impressione, ho incontrato questa persona che non conoscevo, mi ha fatto un'ottima impressione, ho incontrato un cliente, mi ha fatto un'ottima impressione, un possibile cliente, mi ha fatto un'ottima impressione. Ma come si fa a dire ho incontrato Draghi, mi ha fatto un'ottima impressione? La vera domanda, ora che Di Maio ce l'ha detto, siamo tutti più tranquilli, immagino che Draghi abbia dormito sonni tranquilli, però vorrei capire una cosa, che è una curiosità giornalistica. Vorrei la valutazione anche di Draghi sull'impressione che gli ha fatto Di Maio. Adesso sapevo che avrei scatenato. Qualcuno mi dice: ieri ho incontrato il Papa, mi ha fatto un'ottima impressione, preparato sulla catechesi, sono d'accordo. Un altro mi scrive: bravino Draghi. Sì, beh, vedete, il problema è che uno può esprimere il giudizio che vuole, ma non è che se incontro Federer dite voi, o Ronaldo, dico: ma ha fatto, mi sembra un ragazzo in forma. Mi sembra che con la palla ci sappia fare quel portoghese lì di Madeira. Così, a naso. Barisoni, ma tu chi sei? Guardi, io non sono nessuno e infatti non mi sarei mai permesso di dire se incontro Draghi mi ha fatto un'ottima impressione. Avrei detto meno male che l'ho incontrato, ho imparato qualcosa e mi ha fatto piacere vedere che alcune cose che penso le pensa anche Draghi, non so. Mi ha fatto un'ottima impressione. Adesso un voto non vogliamo darlo? Dai. Dal 6 al 10 dove lo posizioni? Magari prenderlo anche come consulente. Così per alcune tema, magari mi sembra che su economia 1, economia 2, politica economica e economia monetaria il ragazzo ci capisca, dai. Allora, andiamo a cose più serie. La Listat, che oggi diffonde un dato che purtroppo è in tendenza, non è una novità in questi anni, continua il calo demografico in questo paese, meno 551.000 residenti, attenzione, non sono nati necessariamente, ma è la popolazione che continua a risiedere in Italia, e quindi 190.000 rispetto all'anno fa, 551.000 residenti in meno in 5 anni. E questo è il bilancio dell'Istat, il bilancio demografico dell'Istat nel 2019, quindi pre-Covid, dove c'è un minimo storico di nuovo nelle nascite, meno 4,5% iscritte all'anagrafe, l'anno scorso solo 420.170 bambini o neonati, e di 16% l'aumento dei cittadini cancellati dalle anagrafiche che vanno all'estero. E quindi insomma il record negativo che già fu del 2018 è stato riaggiornato nel 2019, come ha spiegato al nostro Alessio Maurizi il presidente dell'Istat Giancarlo Blangiardo durante Effetto Giorno. Siamo di fronte ad un'accelerazione del processo e stiamo parlando del 2019, non del 2020. Ancora in epoca pre-Covid noi stiamo vedendo che la natalità ha avuto ancora una forte e brusca discesa. Abbiamo fatto un nuovo record al ribasso, il più basso di sempre, ma non dimentichiamo che sono 7 anni che andiamo avanti a fare ogni anno il record del più basso di sempre. Chiaramente c'è un effetto strutturale, nel senso che scontiamo il fatto che nel passato via via il numero dei nati è diminuito, quindi oggi il numero dei potenziali genitori anno dopo anno diventa sempre meno, ma c'è anche un effetto scelta, o se vogliamo scelta e condizionamento. Gli stranieri stanno in qualche modo perdendo anche loro vitalità, per capirci 62.000 nati stranieri sono il dato del 2019, se andiamo al 2012 erano 80.000, nonostante da allora la popolazione sia aumentata di 1 milione, la popolazione straniera, quindi evidentemente le difficoltà che si incontrano sono difficoltà generalizzate, quindi non è solo la questione degli italiani e quindi gli stranieri hanno una cultura, una tradizione eccetera, ma anche loro si rendono conto del problema, delle difficoltà e quindi conseguentemente si adattano a quello che è il modello del paese in cui vivono. Le azioni di intervento sarebbero tante, ci sono gli aspetti economici, ma non in termini del bonus una tantum, ci vorrebbe qualcosa che incida non solo sulle famiglie povere, ma sulle famiglie del ceto medio, perché sennò i numeri non si fanno. C'è tutto il discorso della compatibilità rispetto al lavoro, cioè norme che consentono di renderlo più conciliabile, c'è il discorso della cura, di una cura distribuita in maniera uniforme su tutto il paese, non gli asili soprattutto in certe aree e per nulla in altre. La situazione è molto chiara, cioè la diagnosi è stata fatta da tempo, è la terapia che fatica a partire. Allora, e poi le stime del REF, meno 9,3% in 2020, ma un futuro molto rischioso, questo lo sappiamo. Allora, qualche dato invece concreto. Allora, la produzione industriale nella parte ANIE, cioè tecnologia elettrotecnica elettronica, ha fatto un più 65% a maggio rispetto ad aprile, ma siamo ancora un meno 17% su maggio del 2019. Questo è in linea col dato della settimana scorsa della produzione industriale, forte rimbalzo a maggio su aprile, ma ancora meno 20 su un anno prima. Gli aggiornamenti dal fondo di garanzia mi segnalano molto. Allora, due cose. Intanto, in maniera un po' empirica, ricevo moltissime meno segnalazioni di imprenditori che stanno ancora aspettando la risposta sui 30.000 euro garantiti dallo Stato e poi tutte le varie le varie, i vari scaglioni, perché poi c'è fino a 800.000 euro e poi fino a 5 milioni con il 90% garantito. Per fortuna, mentre nelle prime settimane eravamo inondati da segnalazioni. L'associazione Banche Italiane ha segnalato che in questo fine settimana i finanziamenti richiesti dalle banche al fondo di garanzia, quindi pratiche già lavorate, sono saliti a un totale di 50,7 miliardi di euro per 819 mila domande, di cui 713 mila domande fino a 30 mila euro per un totale di 14 miliardi di euro. I restanti 36 miliardi sono per le restanti 100.000 domande, che però hanno un ammontare più grande. Invece, per chi fa la richiesta sopra i 5 milioni, c'è la SACE, e la SACE ha concesso garanzie per 8,7 miliardi. Ora, noi spesso critichiamo il governo quando ci sembra che, diciamo, filosofi troppo e agisca poco, e per carità, e quando fa continue consultazioni senza poi prendere una decisione. Però va detto che in questo momento, stante anche tutte le segnalazioni che mi arrivano dalle banche, i prestiti, quelli di taglia più piccolo, 30.000 euro su 10 anni, che servono soprattutto a piccoli esercizi commerciali nel mondo dei servizi, stanno girando finalmente. I prestiti a fondo perduto, tutte le segnalazioni sono gestite dall'Agenzia delle Entrate, ci dicono che si aspetta poco, 10 giorni, una settimana per il prestito su aprile, che il problema è che prende in considerazione solo aprile, e quindi chiaramente c'era chi aprile o non fatturava o magari ha fatturato per una commessa di qualche mese prima. Sulla cassa integrazione qualche lentezza in più c'è ancora. E soprattutto io vi dico, non vale nulla questo osservatorio, solo in maniera empirica, dove ancora continuiamo a ricevere segnalazioni di problemi sono i 600 euro, marzo e aprile addirittura in alcuni casi, e lì non ho capito cosa sia successo, perché il resto invece mi sembra che con tutte le lentezze di alcune banche, di alcune filiali, però che stia girando. Comunque andiamo adesso sul meteo e la pubblicità. Focus Economia. Allora, vedo un messaggio di un ascoltatore, mi dice: guardi che io insieme, ci sono i consulenti finanziari esclusi senza un perché dai prestiti, lo so, mi hanno scritto. Sono alcune, il diavolo si nasconde sempre tra i dettagli, e questo è un elemento diabolico, non ho capito perché alcuni siano stati esclusi dai prestiti. Altri mi dicono: sì, però io sono rimasto chiuso da marzo fino a metà maggio e ho ottenuto solo, cioè lo Stato mi riconosce solo qualcosa per aprile. Sì, però dobbiamo dirla tutta, mi rendo conto che non si può recuperare quanto perso. Lo Stato riconosce a fondo perduto il 20% se fattura fino a 400.000 euro di quello che ha perso rispetto a aprile 2019, e l'Agenzia delle Entrate sono netti, e quindi per ottenere quei soldi avrebbe dovuto fare il doppio come fatturato. Poi ci sono i 600 euro di aprile, di marzo, aprile e maggio, se l'INPS riesce a gestire queste pratiche velocemente. E poi io immagino lei sia un piccolo esercizio come... Poi c'è la parte del prestito a 10 anni, che con i primi 2 anni in cui si pagano solo gli interessi. E poi c'è, invece, se lei aveva anche dei dipendenti, la cassa integrazione. Quindi come strumenti, io mi rendo conto che non siano in grado di non farti sentire il danno della chiusura, però non sono pochi. Il problema in questo caso sono i tempi di questi strumenti, perché sappiamo che la cassa integrazione l'hanno anticipata soprattutto quella ordinaria, ma non solo, nei 2/3 dei casi le imprese. Sappiamo che i 600 euro sono arrivati ad alcuni subito, altri a singhiozzo, altri mai. I 30.000 euro e poi via via gli 800.000 euro hanno avuto un avvio tortuoso dal punto di vista delle banche. Adesso mi sembra che vadano meglio. È chiaro che poi una parte la perderà comunque, ma Non mi sembra che gli strumenti messi in piedi fossero pochi, mi sembra che le criticità si siano create nei tempi con cui arrivano questi soldi. Poi c'è stato anche la moratoria sui mutui. Insomma, mi scrive adesso un ascoltatore: io ho avuto i 600 euro di marzo, ne ho avuti 600 euro d'aprile, ho avuto 1000 euro di fondo perduto, ho avuto lo spostamento delle rate del leasing e del prestito, e ho anche avuto un prestito, quello all'interno del massimo dei 30.000 euro, dei 7.500 euro che comincerò a pagare tra 2 anni. Ecco, non mi sembra pochissimo. Poi dovremo andare a vedere a ottobre la ripresa macchie di leopardo, dove saranno le macchie nere, perché anche lì, guardate, sulla ristorazione, negli alberghi mi stanno scrivendo, ma è molto diverso quello che sta capitando sulle coste dell'Italia, lo continuiamo a dire, dove si registra tutto esaurito nel fine settimana negli alberghi, nei ristoranti, negli stabilimenti balneari, e quello che sta succedendo invece nei centri città, sia storici che urbani, perché mancano i turisti stranieri e le persone sono in smart working, e quindi anche i centri urbani, direzionali, amministrativi, sono in ginocchio gli esercizi commerciali. Poi bisogna andare a vedere, basta non piangere tutto il morto comunque, anche quando alla fin fine vedi che fatturerai magari un meno 10 rispetto all'anno scorso, un meno 10 si regge, se non riesci a reggere un meno 10 fatti una domanda, ammesso che arrivi a meno 10 o meno 15, vuol dire che avevi un'attività che era già, diciamo così, appesa. A proposito dello smart working, ne parlo perché il sindaco di Milano Sala è tornato sul tema, non dello smart working, ma ha suscitato una polemica. Ascoltiamo questo passaggio e anche la risposta dei magistris. Il costo della vita è diverso tra Milano e Reggio Calabria, è sbagliato che il dipendente pubblico abbia lo stesso stipendio del suo collega del nord. Io capisco che è un discorso difficile da fare, però alla fine è chiaro che se il dipendente pubblico a parità di ruolo guadagna gli stessi soldi a Milano o, facendo l'esempio di Melania, a Reggio Calabria, è intrinsecamente sbagliato, nel senso che il costo della vita è diverso. Ma non la condivido per nulla. Siamo amici con Beppe Sala, abbiamo un ottimo rapporto, so che quello è un pezzino, non voglio dire dominante, ma molto diffuso nel nord, ma non è quello l'approccio, e soprattutto non lo è in questo momento in cui bisogna dare prova di grande coesione, a parte gli stipendi sono già molto spesso diversi tra nord e sud, dove il sud ha dimostrato tra l'altro una grande solidarietà, ha dimostrato di reggere molto le sorti sanitarie del nostro paese con un atteggiamento di grande responsabilità. Noi friggiamo spesso il pesce con l'acqua, come diciamo dalle nostre parti, non amiamo l'assistenzialismo, io non l'ho mai amato, né quando facevo il magistrato né adesso. Napoli si è tirata fuori in modo autonomo, però non ci piace questo ragionamento continuo di dire che a Milano bisogna essere pagati di più e a Reggio Calabria di meno, non va bene. Noi dobbiamo invece liberare energie, questa è la mia idea, chiedere allo Stato di fare la sua parte, di investire, ma di essere autonomi. Io vorrei un'Italia in cui si ripartisse proprio dalle autonomie, che sono le città, che sono i territori, però non con le gabbie salariali. Quella è una visione bossi, e mi dispiace che adesso sia anche di Sala, non è così che riparte il paese. Allora, adesso andiamo sul traffico e poi c'è la mitica in attesa. Una battuta, guardate, non è, il punto è molto semplice: se devi abbassare lo stipendio di un dipendente pubblico a Reggio Calabria perché la vita è più bassa, no, non ci siamo. Il ragionamento di Sala mi sembra l'opposto: se vale 100 euro lo stipendio di un lavoratore pubblico, di un insegnante, poniamo, e qui il tema si pone poi perché gli insegnanti, i prestiti a Reggio Calabria, vai a vedere il costo della vita, ci sono una marea di indicatori, c'era anche il Big Mac Index una volta che usava l'Economy, usa l'Economist, usa l'indicatore che vuoi, ma è innegabile che i 1000 euro presi a Reggio Calabria non valgono i 1000 euro presi a Milano o anche a Roma, dove il costo degli affitti è alto. Non è un problema di nord-sud, nessuno vuole levare i soldi all'insegnante calabrese, si dice solo come fa a campare lo stesso insegnante a Milano con un costo della vita più alto, punto e basta. E quindi il tema è portare a 1200 lo stipendio di quello che viene a lavorare a Milano, non il abbassare lo stipendio dell'insegnante calabrese. Mi dite, nel privato, il privato ha la differenza che un minimo tende a incorporare un po', non sempre, un po' di più, il costo della vita, perché sennò non riesci a trovare persone che, o manager che vengono, o quadri, o dipendenti, o impiegati che vengono a lavorare lì. Nel pubblico non lo fai perché gli stipendi sono di carattere nazionale. Non capisco la sorpresa, lo stupore, se non solo per frutto di una certa ipocrisia italica. 349-238-6666 per sms e whatsapp. Andiamo sul traffico. Mini Cooper Countryman Baker Street Edition, tua a 140 euro al mese, TAN 1,99, TAG 3,49. Dopo un anno decidi se rifinanziarla, cambiarla o restituirla. Da subito e solo fino al 31 luglio, incentivi mini su tutta la gamma, anche senza rottamazione. Scopri di più su mini.it. Focus Economia. Allora, Conte, il Presidente del Consiglio, è arrivato a Meisenberg, accolto da Angela Merkel, poi dicevamo giovedì potrebbe già volare a Bruxelles per incontrare Macron, ha visto nel fine settimana il premier olandese Rutte, e venerdì inizia a Bruxelles, a due giorni di negoziato sul Recovery Fund, nel giorno in cui sul Financial Times c'è un duro editoriale contro l'olandese Mark Rutte, accusato di dettare condizioni all'Italia e Spagna, e accusato di essere profondamente antidemocratico e controproducente perché sta politicizzando l'intero processo di aiuti. Le riforme richieste ai frugali sono necessarie, ma ogni paese deve fare la sua parte. Ce n'è a sufficienza per chiamare in campo la mitica Adriana Ceretelli. Buonasera. Buonasera a voi. Allora, ti chiedo di essere in versione, diciamo, barometrica. Come butta da qua a venerdì l'atteggiamento? Abbiamo visto anche Kurz parlare, qualcuno sì. Dice guardate che però Conte sarebbe disponibile a ridurre l'ammontare ma ad avere solo sovvenzioni, Rutte si starebbe ammorbidendo. Il barometro Cerretelli, se non ti offendi. No, il barometro Cerretelli continua, diciamo, a immaginare che l'accordo ci sarà. Non so se già a questo vertice del 17 e 18 o se non sarà necessario un ulteriore vertice, forse la seconda ipotesi è più probabile. Sui contenuti diciamo la partita è ancora molto aperta, ma alcuni punti secondo me cominciano a delinearsi. Per esempio il fatto che i famosi aiuti cosiddetti a fondo perduto dovranno essere, va bene, legati a piani di riforme nazionali, questo lo si sapeva, ma adesso esce anche il secondo aspetto che secondo me difficilmente l'Italia riuscirà ad eliminare, che è quello della governance, che dalla Commissione diciamo sarà più centrata sul Consiglio. Perché questo? Perché non solo, diciamo, questi soldi europei vogliono essere allocati in modo chiaro da parte di chi li concede, ma si vuole anche che siano controllati sempre da chi li concede, cioè sostanzialmente dai governi tramite la Commissione. Quindi io mi immagino che la procedura di approvazione non sarà quella inizialmente proposta dalla Commissione, che è quella che piace all'Italia, cioè sostanzialmente la Commissione dirà sì o no e ci sarebbe sostanzialmente una sorta di visto da parte dei governi. In questo caso invece si vuole piuttosto immaginare un controllo più stretto da parte dell'Ecofin, secondo un po' le procedure che già si vedono da anni, per esempio sui conti pubblici, no? Quando ci sono da approvare procedure eccetera. A me sembra molto più plausibile questa seconda. Beh, non la trovo. Adesso, prego. Che invece non piace l'Italia e che ovviamente piace all'Olanda e ai frugali, ma secondo me piace pure alla Germania, anche se perché è normale, no? Io ti concedo un prestito. Ma io non ci trovo niente. Adesso sarò un po' naif, ma siccome tu ricordavi che già l'Ecofin da anni ci dice guardate a noi, la Francia, la Spagna, guardate che il piano che avete previsto sulla manovra finanziaria è troppo aleatorio. Mi ricordo le critiche sulle entrate dell'evasione fiscale, della lotta all'evasione, troppo aleatorie. Ma voglio dire, a maggior ragione se c'è un prestito europeo, non ci troverei nulla di strano che vi fosse anche un'indicazione e un controllo di chi a livello europeo, non dei singoli stati. No, e in questo caso non sarebbe solo il prestito, perché il prestito quello si vedrà che cosa succederà dei famosi 250 miliardi del recovery fund, in questo caso riguarderebbe proprio gli aiuti. Gli aiuti, quindi, gli a fondo perduto. A fondo di 500 miliardi, diciamo. Sì, sì, a fondo perduto. Esatto. Se sono a fondo perduto, sì, è relativo, perché sono molto condizionati in ogni caso, no? Sia dal fatto che tu devi fare delle riforme, sia dal fatto che appunto ci sarà un controllo. Sono a fondo perduto, ma sotto strettissima vigilanza. Beh, adesso diciamo, io capisco europea, tutto, però a fondo perduto, no, senza che nessuno vada a vedere cosa ne facciamo, sarebbe... Si chiama in un altro modo, non si chiama a fondo perduto. Allora, barometro, cara barometro Ceretelli, noi ti avremo ospite perché poi venerdì inizierà e non mi basta il barometro di lunedì, sappiamo che il meteo è mobile, no? Come una donna, per usare il termine dell'opera, però insomma da qui a venerdì può cambiare tutto, anche perché poi ci sarà l'esito dell'incontro con Angela Merkel, e mercoledì, ripeto, Conte svolgerà in Parlamento un'informativa sul Consiglio europeo e vedremo come andrà anche giovedì con Macron. E comunque tra giovedì e venerdì tornerà la mitica con il barometro Ceretelli, che adesso intanto ringrazio, lascio la linea GR24 e poi tutta la seconda parte del programma dedicata alla vicenda autostrada. Il titolo ha chiuso sui minimi in borsa, meno 15,20%, un crollo bello, vero e proprio, scusatemi, non bello. La tua impresa non ha confini, i tuoi uomini sono sul campo, là fuori. La loro sfida sono le manutenzioni, hanno bisogno di informazioni chiare e tu devi tenere tutto sotto controllo. Per questo Evolvex ha creato un software cloud innovativo per il Field Service Management. Riduci i costi e migliora l'efficienza. Vai su interventosemplice.it. Cari italiani, care italiane, buone notizie dal fronte economico. Ci ha pensato Nissan. Non aspettare ancora. Agli incentivi ci pensa Nissan. Da oggi, se rottami o permuti il tuo vecchio veicolo, su Nissan Qashqai hai fino a 7.450 euro di incentivo fase 3 anziché 4.850. TAN 4,99, TAG 6,11 con finanziamento iBuy, salvo approvazione Nissan finanziaria. Info e condizioni su Nissan.it. Ti aspettiamo in concessionaria in tutta sicurezza. A chi posso chiedere un prestito per comprare un'auto nuova? A noi. E per ristrutturare casa? Sempre a noi. Con Poste Italiane puoi accedere a un'ampia gamma di prestiti personali per realizzare i tuoi progetti. Perché non abbiamo mai smesso di dare risposte ai tuoi bisogni. Scopri le offerte su poste.it o all'ufficio postale. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. I prestiti BancoPosta sono prodotti di finanziamento collocati da Poste Italiane S.p.A. Patrimonio BancoPosta ed erogati da Intesa San Paolo S.p.A. esclusivamente presso gli uffici postali abilitati. Compass Banca S.p.A., Deutsche Bank S.p.A. e Findomestic Banca S.p.A. in virtù del relativo accordo distributivo non esclusivo sottoscritto fra le parti, senza costi aggiuntivi per il cliente. Una comunità è più grande di un supermercato. È per questo che noi di Conad pensiamo a tutto, anche a chi deve ritornare a scuola. Fino al 30 settembre, infatti, in negozio su conad.it puoi prenotare i tuoi libri scolastici con il 15% di sconto immediato. Conad. Persone oltre le cose. Grazie a Eolo, internet ultraveloce raggiunge anche le imprese dei più piccoli comuni italiani. Scopri Eolo Impresa Start. Bastano 5 giorni per attivare la connessione e navighi fino a 100 mega senza limiti. In più hai un servizio di assistenza immediata sempre attivo. Il tutto con un prezzo in promozione da 50 euro al mese anziché 85. Per avere Eolo Impresa Start, chiama il numero verde 800 939 939 o vai su azienda.eolo.it. Eolo. Internet dove gli altri non arrivano. Focus Economia. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Dunque, sabato, ne parlava anche il GR24, il Consiglio di Amministrazione di Autostrade per l'Italia, che è partecipato all'80% dal gruppo Atlantia, che a sua volta gestisce tante altre cose, ha il principale azionista, la famiglia Benetton, con sintonia con il 30%, dicevo, Autostrade per l'Italia ha presentato una nuova proposta al governo, un piano da 3,4 miliardi di oneri per la ricostruzione, manutenzione e riduzione tariffaria direttamente legati alla tragedia del ponte Morandi, cui si sommano la conferma di investimenti per 14 miliardi e mezzo e altri 7 miliardi di manutenzioni, e poi la revisione delle regole dei pedaggi, un modello sulla linea di quanto prescritto dall'autorità dei trasporti. Le questioni sono due: una è la concessione, sistema tariffario, manutenzione, investimenti; l'altra è la governance, cioè quanta quota deve ancora avere Atlantia dentro Autostrade per l'Italia, perché Atlantia e quindi Benetton sono disponibili a scendere sotto il 50%, c'è chi dice fino al 30%, ma non a uscire completamente dal capitale. Il problema è che ci sono, e poi ne parleremo, da un punto di vista finanziario, il gruppo Autostrade per l'Italia ha sostanzialmente, adesso vado a trovare i dati, svariati miliardi di obbligazioni, e quindi il tema è anche che cosa succederà ai debiti. Ha 10 miliardi di debiti, e se dovesse andare in fallimento, complessivamente valgono 19 miliardi, sono 10 miliardi in capo Autostrade per Italia, 9 miliardi in impatto a cascata su Atlantia, e poi 750 milioni che hanno 17 mila piccoli risparmiatori, e poi ci sono i 7 mila dipendenti di Atlantia. Il titolo perché lo dico? Perché oggi il mercato ha reagito malissimo, è crollato del 15-20%. Allora andiamo con ordine. Prima vorrei sentire dalla collega del Sole 24 Ore, quindi mi riferisco a Laura Galvani. Buonasera Laura. Buonasera a voi. Lo stato della trattativa, domani ci sarà un Consiglio dei Ministri, perché da quello che ho visto io la gelata è arrivata dall'intervista, dalla doppia intervista del Premier Conte alla Stampa e al Fatto Quotidiano, in cui ha detto i Benetton non hanno ancora capito che noi non sacrificheremo il bene pubblico all'altare dei loro interessi privati. E il titolo era: i Benetton non prendono in giro il Presidente del Consiglio, ma i familiari delle vittime del Ponte Morandi e tutti gli italiani. Quindi verso cosa si sta andando? Perché un conto è riduzione della quota dei Benetton attraverso Atlantia e piano di risarcimento proposto con riduzione anche tariffaria del 5% dei pedaggi come chiede il governo, altra cosa è dire che deve uscire Atlantia completamente dall'azionariato. Laura. Esattamente, il tema è proprio questo, nel senso che ASPI ha fatto un comunicato anche pochi minuti fa dove ha pubblicato quella che è la proposta inviata l'11 luglio al governo. In quella proposta sostanzialmente recepisce tutte quelle che erano le indicazioni dell'esecutivo in materia di investimenti, in materia di riduzione della tariffa, in materia di mille proroghe, che è l'altro nodo centrale, perché comunque il mille proroghe è quello che ha scatenato il declassamento a rating spazzatura di ASPI, creando praticamente all'azienda problemi seri dal punto di vista del reperimento delle risorse per andare a finanziare. No, ecco, lo chiarisco, il mille proroghe portava dalla la cifra che dovrebbe pagare lo Stato, l'indennizzo diciamo ad Atlantia, da 23 miliardi previsto dalla convenzione del 2008 a 7 miliardi, che secondo me comunque sono troppi, però è chiaro che vuol dire che in caso di revoca avresti un indennizzo molto molto più basso. Ti ho interrotto e chiedo bene, prego. Un indennizzo di 7 miliardi, però la società ha debiti per 10 miliardi, quindi se resta il mille proroghe così come è stato scritto, la società non può bancare i suoi finanziamenti e soprattutto è già praticamente in default, perché vale meno dei debiti che ha. Quindi comunque un correttivo rispetto a quello che è il mille proroghe, non dico che va fatto, ma va trovata una formula per rendere meno impattante l'articolo 9 della mille proroghe. E anche su questo l'azienda era venuta incontro all'esecutivo. L'esecutivo prevede nella sua formula iniziale del mille proroghe la formula del grave inadempimento, ossia scatta la revoca unilaterale se viene riconosciuto un grave inadempimento da parte di ASPI. Loro avevano ristretto il campo di efficacia sostanzialmente di questa formula, sostenendo sostanzialmente che la revoca unilaterale poteva scattare nel momento in cui questo gravissimo inadempimento non era recuperabile, cioè non era sanabile. Questo aspetto qui e l'aspetto dell'assetto proprietario sono sostanzialmente i due temi che hanno interrotto la trattativa. L'accordo sembrava fatto, ma su questi due punti improvvisamente è saltato tutto. Perché? Perché da un lato l'esecutivo sta cercando di forzare la mano, non gli va più bene che i Benetton scendano sotto il 50% del capitale, in particolare al 37%, perché l'ipotesi era che lo socio parastatale più un socio privato arrivasse al 51% di Autostrade, fermo restando il 12% degli altri azionisti di minoranza che ci sono dentro, i Benetton, diciamo così, perché in realtà è Atlantia, sarebbero scesi al 37% di Aspi. Questo non gli andava più bene, non gli va più bene, vorrebbero che i Benetton uscissero direttamente dal capitale. D'altra parte loro dicono, questa è una richiesta che a noi sul tavolo non è mai stata messa. A noi è stato chiesto di rivedere la governance, è stato chiesto di fare un passo indietro e questo l'abbiamo riconosciuto. Poi se Conte decide che dobbiamo uscire, uno ce lo devono dire, ma ce lo devono dire formalmente e poi... come dire, è un tema sul quale si apre tutt'altro genere di ragionamento. Altro aspetto è proprio quello del mille proroghe. La formula proposta dalla società per la revisione dell'articolo 9 del mille proroghe è una formula che pare non andare bene all'esecutivo. Su questi due elementi si è interrotta la trattativa, come andrà a finire è da vedere, nel senso che se dovesse scattare la revoca, se il Consiglio dei Ministri di domani decidesse di procedere con la revoca della convenzione, per Aspi si aprirebbe innanzitutto quasi sicuramente una battaglia legale, nel senso che Atlantia a quel punto farebbe ricorso e a quel punto... devi immaginarti almeno 2 anni di battaglia legale dove la rete infrastrutturale italiana resterà ferma. Sì, ferma sugli investimenti, la manutenzione ordinaria. La manutenzione ordinaria, ma per tutto il resto gli interventi, quelli strutturali importanti, resteranno sì, fermi. Ecco, è che sarebbe un controsenso rispetto anche al piano di investimenti infrastrutturali. Allora lo dico, l'ho detto in apertura, a me il fatto che vada rivista questa concessione è fuori discussione. Il fatto che la gestione in capo ai Benetton attraverso il 30% di Atlantia, che controlla a sua volta l'80% di Autostrade, non sia stata, diciamo, una gestione accettabile, è fuori discussione. Il problema adesso è, per uscire dai like e dei social e dal consenso politico, per capire come non farci male noi, perché se io poi scopro che rischio di dover dare 7 miliardi comunque di penali, di indennizzo agli stessi Benetton e blocco nel frattempo gli investimenti, metto a rischio 7.000 dipendenti, allora è meglio che tutto si faccia, ma nell'interesse pubblico, non nell'interesse mio, che non vuol dire salvare o non salvare Benetton, ma ne frega niente, a me interessa non perdere altri soldi che vengano fatti questi investimenti. Vedo che poco fa la Lega ha presentato una mozione e sarà in Senato la prossima settimana, ma soprattutto anche il segretario del PD Zingaretti ha detto la lettera di Aspi al governo è deludente e conferma l'esigenza di un profondo cambio di indirizzo, giusti i rilievi di Conte. Quindi anche il PDS è totalmente in linea con Conte sul definire insufficiente una presa in giro la proposta dei Benetton. Io ringrazio intanto Laura Galvagni, ho il traffico e poi vorrei capire da un lato che soluzione di sistema operativa si potrebbe generare, dall'altro se quali possono essere i fondi interessati a entrare in sto capitale. La parte italiana, però, nell'ipotesi in cui ci fosse ancora una componente di Atlantia dentro, vedeva Cassa Depositi e Prestiti, F2I e Poste Vita. È chiaro che se poi la revoca è totale devi trovare ulteriori capitali, almeno il 37% rispetto all'ipotesi, all'ultima ipotesi di Atlantia. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Focus Economia. Allora, professor Carlo Scarpa, che insegna economia politica all'Università di Brescia, buonasera. Buonasera a tutti. Scarpa, guardi, siccome domani ci sarà questo CDM, Consiglio dei Ministri alle 11 sul dossier Aspi, la rinviterò perché adesso stiamo ragionando, sono un po' al buio al di là delle dichiarazioni politiche. Però un primo ragionamento, prima di tornare a parlare domani, sulle ipotesi, insomma l'idea che lei si è fatto di questa situazione, poi domani potremo commentare una proposta non solo, diciamo, come intervista sui giornali, anche del governo, però mi interessa una sua valutazione preliminare. La mia reazione immediata è che si sta sbagliando sostanzialmente bersaglio, cioè il tema non sono tanto i Benetton, il problema è che manca una struttura di controllo sugli investimenti autostradali, manca un'autorità di regolazione a cui sia stata data la possibilità di controllare queste cose, cioè per anni il controllo è stato fatto da parte del Ministero, che vuol dire che non è stato fatto nulla, perché non c'era un ufficio del Ministero che avesse una minima dotazione di personale e competenze per svolgere questa funzione. Fin quando non abbiamo questo, passare da un azionista a un altro vuol dire riproporre lo stesso problema da qui a qualche anno. Per cui dobbiamo rimettere in piedi un sistema di incentivi prima e di controlli che stia in piedi. Sugli incentivi, la politica di prezzo, le nuove regole tariffarie dell'ART che devono essere accettate dal nuovo gestore, sicuramente mi sembra che siano un ottimo punto di partenza. Manca tutto il tema dei controlli, lì non possiamo nasconderci del rovito. No. Stato è mancato. Anche perché, voglio dire, come gestione privata, noi abbiamo 1000 km in gestione all'ANAS, 5870 km in gestione privata, sono 26 concessioni. Di questi 5800, 3000 sono in mano Atlantia, quindi Benetton, ma ce ne sono altri 2800 che sono in mano a altri soggetti, quindi non vale solo per Atlantia, vale per tutti. Vale anche per ANAS. Però voglio essere chiaro, non è che se io commetto un reato o la colpa è del fatto di che non mi hanno controllato, la colpa è di chi non ha gestito, non ha fatto gli investimenti dovuti. Dopodiché lei dice attenzione, però, perché l'esperienza ci insegna che se tu non metti una struttura di controllo, poi rischi di intervenire sempre tardi e male. E non verificare quello che viene fatto. Secondo lei, in una battuta, perché ancora non si è creata una struttura di controllo? Ripeto, non ho detto che se uno compie un reato la colpa non è sua ma di chi non ha controllato, ma nella legge esiste anche l'autorità di controllo oltre che di sanzione, se no avremo le strade senza vigili, non vi sarebbero pattuglie della polizia e quant'altro. Esatto. Prego. Ma perché non è stato fatto? Semplicemente insipienza. Si è data mano libera completa ai concessionari, fidando sul fatto che tutto sommato c'era una regola di prezzo così generosa per cui qualunque tipo di investimento andava in tariffa. Peccato che non mettevano in tariffa solo gli investimenti effettuati, ma anche gli investimenti in qualche modo promessi, senza nessuna verifica ex post che poi venissero effettuati. Per cui è stato veramente un sistema completamente sballato. Era fidarsi del cittadino che non passa mai col rosso, che rispetta tutte le regole senza che vi siano i controlli. Mettiamola così. Dopodiché il punto che le citava, guardate, è il punto, la pietra cardinale su tutto. Gli investimenti erano legati, non solo gli le tariffe dei pedaggi erano legate non solo agli investimenti effettuati ma anche a quelli promessi. È lì che la gestione azionista Benetton e poi gestione di Atlantia non ha giustificazioni. Perché tu, a fronte di aumenti dei pedaggi, puoi girare la frittata come vuoi, gli investimenti non li hai fatti, non li hai fatti in maniera conseguenziale. C'è stato un crollo degli investimenti 2015 su 2016 del 25%, ultimi dati che abbiamo trovato. Poi tutto il resto sul modo, adesso vediamo, non voglio dare un euro ad Atlantia, quindi non vorrei pagare nessuna penale o soprattutto appunto indennizzo da questo. Troviamo una soluzione in cui non esca un euro di cittadini italiani, escono soldi di Atlantia, investimenti, infrastrutture e poi andiamo a verificare che questo accada. La riavremo ospite domani, professore, così commenteremo meglio la proposta del governo, perché poi c'è il tema. Adesso però vorrei chiudere con uno speciale di Dietro la Notizia, l'abbiamo collocato adesso perché riguarda proprio chi potrebbe essere interessato a entrare eventualmente nel capitale di Atlantia. Dietro la notizia. Oggi più che mai dietro la notizia, anche se un po' accorciato come tempi. Alessandro Platerotti, buonasera. Buonasera a voi e buonasera a tutti quanti gli ascoltatori. Chi potrebbe essere interessato secondo quello che tu sei riuscito a capire? Allora, partiamo dalle date ufficiali. I dati ufficiali sono che ci sono due soggetti interessati, che sono due soggetti, uno pubblico, ovvero la Cassa Depositi e Prestiti, che la vogliamo chiamare pubblica, sapendo che le fondazioni comunque hanno un ruolo chiave, e l'altro è il Fondo Infrastrutturale F2I, che in fondo è poi ancora partecipato poi dalla stessa Cassa Depositi e Prestiti, ma opera come un fondo privato, un soggetto di investimento. Allora, gli investitori fondi internazionali, che sono almeno tre, si sono fatti avanti. Due sono americani e uno è un fondo sovrano. La cosa interessante, in questo momento è inutile stare a fare nome per non compromettere nemmeno le trattative, ma quello che posso dire, uno è già azionista, è un fondo sovrano già azionista di Atlantia. Hanno espresso delle preferenze al governo su chi vorrebbero, come e a quali condizioni sarebbero disposti a entrare. Per quanto riguarda i soggetti, la prima cosa che vi posso dire è che c'è una netta preferenza per Cassa Depositi e Prestiti e per l'esclusione di F2I. Questo per due motivi. Il primo, si è riaperto il dibattito sui cosiddetti monopoli naturali, cioè il momento stesso in cui si ridecide che infrastrutture come quelle autostradali, che non è possibile costruire una nuova rete e quindi è considerato monopolio naturale, deve essere direttamente in mano a soggetto pubblico, e quindi Cassa Depositi e Prestiti offrirebbe le maggiori garanzie a eventuali partner internazionali disposti ad entrare. Ma allo stesso tempo ci sono alcune pregiudiziali. La prima riguarda il prezzo. È vero che la questione della revoca è ormai sul tavolo del governo, ma è anche vero che una confisca, come addirittura è stato minacciato, sarebbe devastante sotto il profilo finanziario e per Atlantia, perché poi le obbligazioni, i bond che sono stati venduti in base a un'operazione con una confisca, o quantomeno rilevare tutto il controllo a valore storico, significa mandare in default la società. Allora, che cosa sta succedendo lì? Il dietro le quinte di oggi è questo: si sta valutando quali asset vendere possibili per evitare proprio un default che andrebbe a cadere non solo nelle tasche dei risparmiatori italiani, ma anche in quelle, paradossalmente, della BCE. La Banca Centrale Europea ha fatto incetta di bond delle autostrade e non ha mai perso, anzi è successo una volta sola con una banca che perdesse dei soldi, tra l'altro una banca tedesca, ma in realtà non è mai successo con un gruppo infrastrutturale di queste dimensioni, BCE perdesse, perché un default azzererebbe di fatto il valore delle obbligazioni. Certo, emesse. Alessandro, hai 30 secondi per dirmi che cosa si potrebbe dismettere, diciamo. Allora, si sta valutando la cessione di intanto delle partecipazioni agli aeroporti di Venezia. Quello è uno degli asset che potrebbero essere venduti ed è quello su cui si sta sondando, anche perché con la rottura della questione di Alitalia la presenza negli aeroporti del gruppo Benetton non avrebbe più senso. La seconda su cui si sta lavorando riguarda delle partecipazioni nelle società che riguardano internet, ovvero ce n'è una in particolare che potrebbe essere ceduta. Il totale dell'incasso che loro hanno previsto dalle attenzione, parliamo di partecipazioni non consolidate, okay, ovvero che non fanno parte del bilancio, sono circa 3-5 miliardi. Questo è il loro paracadute per evitare un eventuale prezzo si tramutasse in un default devastante per chi ha investito sulla società. Oh, grazie anche Alessandro Praterotti, lo ritroveremo lunedì in forma large, non dico extra large, ma large. Oggi era in forma più ridotta, ma ci interessava capire come il mercato si stesse già muovendo sull'ipotesi di nuovo azionariato dentro Autostrade per l'Italia. Domani torneremo a parlare. Intanto, da Sebastiano Barisoni, l'auguro di una buona serata. Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it.